te lo raccontiamo noi, l'autunno caldo. 50 anni dopo, il 68, il 69 e Piazza Fontana. Buonasera, siamo ancora qui con Te lo raccontiamo noi, l'autunno caldo, con Agostino. Michele, ciao a tutti. Michele, dimmi. Però adesso mi devi confessare una cosa. Tranquillo che non rischi nulla. Tu, in quegli anni lì, di quale gruppo avresti fatto parte? Potere operaio? Avanguardia operaia? Lotta continua? Il manifesto? Sicuramente no il PC, non del PC. Ma probabilmente per gusti estetici direi il manifesto, perché pare che fosse l'organizzazione politica con le compagne più belle. Tant'è che pare che a un certo punto Scalzone cominciasse a discutere di un'unificazione fra potere operaio e il manifesto per una cotta con una dirigente del manifesto, di cui non possiamo fare il nome perché è ancora viva e attiva. Però in realtà non era soltanto una divisione ridicola come potrebbe apparire oggi, quella in mille gruppi. In realtà, immagino che le divisioni erano molto molto serie, si basavano su confini abbastanza precisi. Sì, in realtà quelli che noi oggi chiamiamo gruppi organizzavano a diverse migliaia di militanti ognuno, e certo. Quindi diciamo che il più grosso partito di sinistra oggi è grande come un partito medio dell'estrema sinistra di 50 anni fa. E nel 1969 nascono alcuni dei partiti più importanti della sinistra rivoluzionaria italiana. Nasce Lotta Continua, dove da un incontro fra gli studenti toscani, in particolar modo dell'Ateneo Pisano, con altri gruppi delle facoltà di Trento e di Torino e anche operai della FIT di Torino, nasce il manifesto perché vengono espulsi dal Partito Comunista Italiano, e nasce Avanguardia Operaia, fondamentalmente AO, Organizzazione Comunista Avanguardia Operaia era il nome intero, che nasce da una scissione dei gruppi comunisti rivoluzionari, che erano i trotskisti di allora, che però erano interni al Partito Comunista. Una scelta sciagurata, decidono di rimanere nel Partito Comunista pensando che il futuro sarebbe stato la corrente ingraiana. In realtà perdono quasi tutti i quadri giovanili che danno vita ad Avanguardia Operaia, che diventerà un partito radicatissimo in Lombardia, in particolar modo a Milano, nelle fabbriche milanesi, ma anche con altri gruppi, affiliazioni locali un po' lungo tutto lo stivale. E Avanguardia Operaia poi durerà fino al 76-77, quando si unificherà con un pezzo del manifesto, anzi dell'allora PDUP, poi, perché poi il manifesto diventerà PDUP, e darà vita a Democrazia Proletaria nel 78. E l'MS cos'era invece? Prima l'MS, che era il Movimento Studentesco della Statale, che era il gruppo che aveva come leader Mario Capanna. Mitico Mario Capanna. Dopo di scissione, ricomposizione e scissione, ci sarà l'MLS, sempre con base fondamentalmente a Milano, Movimento Lavoratori per il Socialismo. Tutti fumavano le sigarette MS, ovviamente. Può darsi. In realtà l'MS era un gruppo abbastanza stalinista e abbastanza ortodosso, centrato molto sui temi dell'antifascismo, mentre invece Lotta Continua, per esempio, riuscì ad innovare moltissimo la politica a sinistra, andando a toccare e impegnandosi su temi e terreni abbandonati, come la questione delle carceri, la questione dei soldati di leva, quando fondò il Movimento dei Proletari in Divisa, i PID, che poi avevano anche degli equivalenti anche in altre organizzazioni dell'estrema sinistra, ma minori rispetto a quelli di Lotta Continua. Braccianti e gente dei quartieri, siamo studenti, pastori sardi, divisi fino a ieri. Lotta, lotta di lunga durata, lotta di popolo armata, lotta continua sarà. Usiamole insieme prima che sia fine. E poi nei gruppi dell'estrema sinistra, fra i primi a nascere, c'era Potere Operaio, detto anche Potop, con una sigla abbastanza musicale. Beh, a questo punto converrebbe ascoltare le parole di Valerio Guizzardi, che proprio uno ha fatto parte di Potop, no? Fra la sua militanza storica, anche ha fatto parte anche di Potere Operaio. Abbiamo qui con noi in linea Valerio Guizzardi, un ex militante di Potere Operaio. Potere Operaio, una delle organizzazioni importanti dell'estrema sinistra 50 anni fa, ma ormai quasi dimenticata, forse una cosa da reduci o da studiosi di storia. Che cosa ci puoi raccontare sulla nascita di Potop? La nascita di Potop è stata la fine di un percorso abbastanza lungo, che nasce in realtà nella seconda metà degli anni 50 con la nascita di quel particolare pensiero del movimento operaio e comunista che sarebbe l'operaismo, quindi con Raniero Panzieri e Mario Tronti, i Valdostani, Riesere, eccetera eccetera, che fondano i Quaderni Rossi. Da lì nel tempo, verso gli anni 60, una prima scissione con Classe Operaia, e poi da lì la redazione di Classe Operaia farà una rivista che si chiamerà La Classe. Dalla Classe nasce Potere Operaio, siamo nel 67, e lì inizia questa avventura che si conclude nel 73 col convegno di Rosolina. Potere Operaio, diciamo buona parte di Potere Operaio, diventa l'autonomia operaia organizzata e finisce qua. E poi dopo questo filone del pensiero comunista, quindi dell'operaismo, continua poi fino ad oggi con le sue evoluzioni, con un'evoluzione teorica, ma rimane comunque lo stesso stile della militanza, appunto, che è quello della Conricerca, che ha caratterizzato l'operaismo. E la Conricerca è partita appunto nelle fabbriche, non a caso. Potere Operaio era un gruppo politico presente anche a Bologna, nella nostra città. Qual era la sua attività? Sì, era presente anche a Bologna. La presenza forte di Potere Operaio era in Piemonte, ma soprattutto a Torino, poco a Milano, molto a Padova, molto a Bologna e poi a Roma. Sì, a Bologna Potere Operaio dal 69. Da noi la prima sede apre nel 69 in via dei Grifoni, e poi con l'andare dei mesi si trasferisce in via Pietralata, e poi finisce in via Marsala con il circolo Serantini, intitolato al compagno ucciso a Pisa. È stata l'ultima sede di Potere Operaio fino al 73, quando c'è stato lo scioglimento. Dopo da lì ce ne siamo andati tutti, ognuno, praticamente tutti, nell'autonomia, qualcun altro per altre strade, insomma. Potere Operaio era famoso anche per il suo inno. Ce lo potresti cantare, per favore? Compagno operaio, non mi ricordo più, guarda, è quello di scansione. Sì, la classe operaia, compagna all'attacco, Stato e padrone no, non possono fermare, non c'è da perdere che le catene, abbiamo solo un mondo da guadagnare, Stato e padroni, fate attenzione. Bene, fa fantastico, fantastico. Ci possiamo fermare qui. Ecco come possiamo vedere la modernità dei militanti di Potop, dalle piazze con le chiavi inglesi a X Factor. Sì, esattamente. Se mi invitate, possiamo fare un provino, qualcosa. Senz'altro. Scherzando e ridendo, i compagni come Valerio Guizzardi, per tanti di noi, sono veramente delle figure mitiche, insomma, perché aver fatto 77, il 68. È rappresentato tanto per tanti compagni, ecco, questo bisogna dirlo, al di là delle battute. Vi ringrazio molto. Quest'anno sono 52 anni di militanza comunista operaista, quindi 52. Spero di averne parecchi altri. Abbiamo ancora molto da fare, non è che ci possiamo fermare qua, soprattutto in quest'ultimo periodo che è pessimo, veramente pessimo. Bisogna riunire le forze, bisogna non lasciare perdere un attimo. Bisogna lottare ancora. Grazie Valerio. Grazie. Grazie a voi. Ciao ciao. Un abbraccio a tutti. Ciao. La classe operaia compagna all'attacco, Stato e padroni non la possono fermare, niente operai curvi più a lavorare, ma tutti uniti siamo pronti a lottare. Non lavoro salariato, conquistiamo il potere, Stato e padroni, fate attenzione, nasce il partito dell'insurrezione, potere operaio e rivoluzione, bandiere rosse e comunità.

Per quanto riguarda, insomma, un tuo giudizio per quanto riguarda la quella che era la, diciamo, il 68 dal punto di vista più politico, nel senso dal punto di vista dei gruppi della sinistra extraparlamentare che un po' giocavano a farsi la guerra l'uno con l'altro, ecco, e dall'altro lato invece la mancata attenzione forse dei partiti della sinistra cosiddetta istituzionale, il PC in primo luogo, ecco, pensa a questo, un tuo giudizio su quest'altro aspetto. Hanno cannato tutto, nel senso che non c'è stata nessun gruppo politico che ha saputo raccogliere la ricchezza di questo cambiamento, c'è stato un tentativo di sfruttare questo cambiamento per costruire il piccolo partitino, per dare addosso agli altri, appunto io racconto di tutte le botte che ci furono tra comunisti, una cosa vergognosa che fu dei motivi della crisi del movimento, così come un altro motivo della crisi del movimento fu la fazione che scelse di usare metodi sempre più violenti, con giustificazione indiscutibile del fatto che c'era un attacco da parte dello Stato, dei servizi segreti e devianti, le destre violentissimo con morti, le bombe, gli arresti, le persecuzioni, le torture, però sì, questo attacco violento, bisognava trovare un altro modo per reagire, perché reagire con la violenza fu non solo moralmente e umanamente scorrendo, ma fu proprio un disastro, perché contribuì a tagliare le gambe a questo movimento e i gruppi politici, sia il Partito Comunista che i gruppi extraparlamentari, non seppero mettersi al servizio di questa rivoluzione culturale. Certo. La interpretarono soltanto dal punto di vista politico, addirittura appunto che da quel movimento è nata l'Armata Rossa, la rivoluzione comunista, eccetera, eccetera, o comunque una lotta politica, e furono pochi invece a vedere che era una lotta culturale. Io ebbi la fortuna di far parte del gruppo Gramsci, che era uno dei pochi gruppi che non cercò di mettersi a comando, ma al servizio della rivoluzione culturale, per cui la musica, per cui i nuovi rapporti tra le persone, l'arte, eccetera, eccetera. Invece un'ultima domanda sull'oggi, cioè su che senso ha oggi parlare del 68, ricordare il 68 e i giovani che oggi si ribellano, si muovono per svariati motivi, lo vediamo in primo luogo per il clima, però insomma cosa dovrebbero prendere dal 68 e invece cosa non dovrebbero prendere, ecco, forse le cose non più o meno già le abbiamo dette, però cosa invece ha senso oggi riprendere di quel periodo lì, senza ovviamente farla parte di quelli che danno le lezioni, no? Perché hanno fatto il 68, che quello è odiosissimo. Io credo che stia già succedendo, che il movimento oggi è enorme, internet ha dato a milioni e milioni di giovani la possibilità di creare, di fare cultura, di fare comunicazione, ed è quello che sta succedendo, non serve che qualcuno si metta a fare lezioni, si tratta di guardare la realtà e vedere che c'è un grandissimo cambiamento positivo, perché la quantità di testi, di scritti, di video, di immagini che vengono prodotte è 100 volte, 1000 volte quello che poteva essere 20 anni fa. Il numero di giovani che stanno producendo cultura, e anche non di giovani, è esploso. Poi molti si mettono lì e fanno i giudici, perché internet porta a galla gente che dice delle cagolate, le fake news, le notizie false, gli odiatori seriali, certo, Isterici, eccetera. Ma questi c'erano anche prima, solo che prima non nessuno li vedeva perché stavano chiusi in casa loro. Adesso hanno un cellulare e rompono i coglioni al mondo, ma questo non è l'aspetto fondamentale. Così come questa data di destra che c'è, da Trump a Salvini, eccetera, eccetera, è una reazione a un cambiamento troppo veloce, perché tutto quello che noi facciamo è cambiato completamente. Qualunque cosa, comprare, lavorare, avere relazioni, avere una storia d'amore, e questo si sa che il cervello umano, davanti a dei cambiamenti troppo violenti e troppo rapidi, reagisce volendo tornare a cose conosciute, antiche, luoghi comuni, eccetera, eccetera. Ma io credo che questa sia una crisi di cambiamento, non è che internet porterà i reazionari al potere. Internet è la rivoluzione, è il progresso, quindi quello che io sto cercando di fare insieme a tante persone è connettere questa realtà. Abbiamo fatto un sito che è stradaalternativa.it, che è un sistema ad esempio di scambio di punti contenuti tra blog che si occupano di solidarietà, di ambiente, di cultura. E dobbiamo costruire dei sistemi per creare una rete alternativa di comunicazione, di informazione. Ma è quello che sta succedendo, al di là del successo di un'azione o un'altra azione, perché ci sono milioni di persone che nel mondo stanno remando in quella direzione. E non a caso esplode oggi Creta con tutti i giovani socialisti, che è una cosa che non si è mai vista nella storia del mondo. Grazie, grazie mille a Jacopo Fo per il suo contributo e alla prossima. Prossima, grazie, ciao. When the truth is found to be libri di questo ciclo di E te lo raccontiamo noi, l'autunno caldo. Hai qualche suggerimento finale, Agostino? Bah, io partirei subito dal ricordare il libro di Jacopo Fo e Sergio Parini, che appunto è stato pubblicato dalla Feltrinelli nel 97, si intitola proprio 68, c'era una volta la rivoluzione, i 10 anni che sconvolsero il mondo. È davvero molto, diciamo, carino, è un libro leggero che affronta con ironia quel periodo. Ci sono anche le illustrazioni su come erano i vari servizi d'ordine dei vari gruppi, oltre alle tante cose, quindi diciamo si alternano il testo raccontato e scritto a delle immagini, ed è molto, molto efficace. Tu hai invece altri libri da suggerire? Sì, sui gruppi dell'estrema sinistra, un classico forse di difficile reperibilità, Luigi Bobbio, Lotta Continua. Poi un grande classico del 73, Vettori, la sinistra extraparlamentare in Italia, con anche un apparato, un documentario molto ben fatto. Invece, che si possono trovare tranquillamente in libreria, di Marco Scavino, Potop per Deriva Prodi, e sempre di Scavino, insieme a Diego Giacchetti, che abbiamo intervistato durante questo ciclo di trasmissioni, La Fiat in mano agli operai, a cura della biblioteca Franco Serantini. Bene, a questo punto ci salutiamo e salutiamo i nostri ascoltatori, speriamo di non averli appesantiti troppo. L'anniversario dell'autunno caldo ormai sta finendo, l'inverno è alle porte. L'inverno è alle porte. E ci possiamo dare appuntamento alla prossima scadenza storica, dove torneremo a disturbarvi sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Arrivederci. Ciao a tutti. Circolare a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei.